La perfezione islamica del comportamento, al-ihsan. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, ha detto nel sublime Corano: c'è per voi nell'apostolo di Allah un modello esemplare di comportamento. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, quindi, in virtù di questa prescrittiva indicazione divina, è, con la sua pratica, la sunna, un luminoso esempio di come deve essere la linea di condotta del musulmano, sicché, e avendo come punto di riferimento le lezioni di vita, i consigli, gli ammonimenti, i precetti del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, che il musulmano persegue il perfezionamento della propria condotta, poiché il comportamento dell'uomo, per quanto egli si sforzi di essere coerente ai modelli e ai precetti del profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, è continuamente perfezionabile. Dato che la perfezione non è di questo mondo, fatta eccezione per i profeti. Migliorare la propria condotta è uno dei meriti più efficaci per ottenere una posizione di rilievo in paradiso. Perciò il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, ha insegnato quando è che il musulmano raggiunge la perfezione islamica del suo comportamento. Egli, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: la perfezione del comportamento islamico, al-ihsan, si realizza quando tu adori Allah nella consapevolezza di essere in sua presenza, ben consapevole anche che se tu non vedi Lui, Lui vede te. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nella sura intitolata Ar-Rahman, la sura del sommamente misericordioso: al jazaul ihsani illa l'ihsan, forse che la ricompensa della perfezione è altro che la perfezione della ricompensa?